Negli ultimi 20 minuti la situazione si è capovolta completamente, siamo scesi a mezzogiorno meno 10 a parlare con le forze dell'ordine, che ci hanno detto che entro 10 minuti dovevamo dire se la scuola sarebbe rimasta occupata oppure se ce ne andavamo, perdonami ma l'emozione è forte. Vai tranquillo. E soprattutto rabbia, perché passati soltanto 6 minuti, nel momento in cui noi siamo scesi per annunciargli che ce ne stavamo andando, dovute per via delle forti minacce che ci sono state rivolte di chiamare la Cellere e di attuare uno sgombero, insomma, non proprio urbano. E dopo queste violente minacce abbiamo deciso di andarcene. Nonostante avessimo comunicato di volercene andare, 4 poliziotti in borghese sono entrati all'interno dell'edificio scatenando il panico, rincorrendo letteralmente gli studenti, che fortunatamente siamo riusciti a uscire tutti quanti da un'uscita secondaria. E adesso la testa è rimasta di fronte scuola, stiamo aspettando due dei rappresentanti di istituto più un altro ragazzo della testa, tutti e 3 maggiorenni che sono rimasti all'interno dell'edificio a discutere con Digos, forze dell'ordine e preside. Non abbiamo idea di che risvolti potrebbe avere questa fine di questa breve ma intensa occupazione. Il liceo Manara, insomma, ci arrivava voce che, insomma, anche è stato sgomberato in seguito a intimidazioni da parte delle forze dell'ordine, giusto? Sì, allora, il liceo Manara ha ricevuto lo stesso identico nostro trattamento, esclusa l'entrata degli agenti in borghese. E infatti al liceo Manara hanno fatto le stesse identiche minacce e hanno deciso di uscire, però a loro fortunatamente non, insomma, come si dice, non hanno fatto in bocca alle guardie. Ok, e niente, io, insomma, così, giusto a livello proprio personale, vi direi di cercare di rispondere insieme. Non sbaglio, siete vicini comunque come scuola, no? Sì, siamo nello stesso quartiere, c'è una via sola che ci divide. Speriamo non finisca oggi questa cosa, perché, insomma, no, non finirà assolutamente oggi. Se ci vuoi dire qualcosa, se no nel pomeriggio, se vuoi chiamare, vi diamo ancora ovviamente spazio, però, insomma, ne parlavo prima, mi sembra che il quadro sia abbastanza preoccupante tra quello che è successo al Virgilio, che però almeno, insomma, ha fatto un po' di giorni di occupazione, il Pasteur la settimana scorsa, insomma, ormai mi sembra che, sì. Le forze dell'ordine pensino di poter evitare le occupazioni, penso stia al cuore di tutti invece di dimostrargli che non possono, che non bastano loro per evitarle, ma che, come dici te, le ragioni di voglia di libertà degli studenti di protestare contro quello che giustamente volete protestare deve raggiungere una certa forza. Penso anche alle 700 scuole occupate in Francia, ecco, insomma. Sì, sono pienamente d'accordo. Abbiamo intenzione di indire nel corso di questa settimana una serie di scioperi bianchi, però ancora è tutto è soltanto un'idea. Tra poco ci vedremo, decideremo bene come fare. In settimana c'è anche un corteo studentesco indetto, o sbaglio? Sì, questo venerdì c'è un corteo studentesco, a cui ovviamente noi, come Morgagni, e immagino proprio anche il Manara, parteciperemo.